9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, siete pronti a iniziare tutte le mattine le trasmissioni di ogni rete radiofonica con questo inno al posto dell'inno alla gioia? Siete pronti a cantare Deutschland, Deutschland, über alles, über alles in der Welt? Questa è la domanda, un pochino retorica se volete, però come sempre, diciamo, per attirare l'attenzione su un tema che potrebbe allontanare molti tecnici che dicono ma insomma questi parlano di euro eccetera, cosa ce ne viene? Siamo attenti perché molti pensano ormai che quello che avviene sotto i nostri occhi da febbraio di quest'anno, prima la crisi della Grecia, 3 mesi di ballo e per la prima volta scopriamo che l'euro non è uno scudo per tutti ma per alcuni è una gabbia, e poi la ripresa della crisi che dopo la soluzione con il fondo europeo varato per salvare la Grecia, il fondo monetario, il fondo europeo di oltre 400 miliardi, riscopriamo dopo qualche mese estendersi invece ad altri paesi europei, all'Irlanda perché aveva il problema ancora di coperture bancarie, all'Irish Bank, però ecco che la crisi si estende ulteriormente perché poi gli spread riprendono a salire per un pacchetto di paesi, per la Spagna che non ha ancora digerito la sua bolla immobiliare e che ha un problema ancora nel sistema bancario delle sue casse, non tanto del Bilbao e del Santander, le banche grandi, però di molte casse di risparmio. Per il Portogallo che ha un problema di esposizione della bilancia dei pagamenti a doppia cifra, in altre parole non esporta abbastanza e dipende troppo dai capitali esteri, e sorpresa per alcuni, non sorpresa per noi, anche l'Italia inizia a entrare nel blocchetto di paesi i cui spread rispetto ai titoli pubblici tedeschi decennali, i Bund, iniziano a salire. Siamo andati 2 giorni fa al massimo storico, 210 punti base. Alcune domande. Prima domanda, l'instabilità politica italiana contribuisce a questo e quindi la politica ci dovrebbe pensare bene, oppure il problema di fondo è un problema di ordine diverso, cioè il fatto che noi non abbiamo un problema di bilancia di pagamenti eccessivo, non abbiamo problemi di bolle eccessive, certo che no, però abbiamo una crescita così bassa che contribuisce comunque a far crescere il debito pubblico, anche se abbiamo avuto un deficit molto controllato, insieme a quello tedesco, uno dei più bassi in tutti i paesi europei, quindi con un paese di crescita bassa e che ha oneri del debito pubblico 5 volte la sua crescita media attesa, il mercato dice no, voi siete a rischio, siete malati. Questo rischio con l'instabilità politica che rapporto ha? Questo rischio cosa può voler dire nel caso in cui gli spread saltino a 300 punti nell'ambito di poche sedute di borsa? Cosa può voler dire? Può voler dire manovre aggiuntive? Questo governo è in grado di assumerle? Un governo nuovo di emergenza eventualmente se qualche cosa va storto il 14 dicembre, come potrebbe andare storto perché sapete che i numeri alla Camera sono messi in un certo modo e la maggioranza allo stato attuale non ce l'ha, la maggioranza assoluta alla Camera. Che cosa vorrebbe dire? Che poi ci proporranno un governo di emergenza istituzionale proprio per assumere misure nuove e con quali figure di garanti verso l'Europa e verso i conti? Oltretutto paesi come la Spagna danno un'ulteriore stretta eppure alleviano le tasse alle aziende medie e piccole, e di ieri la notizia da parte di Zapatero. Da noi cosa c'è dietro l'angolo? Una patrimoniale, come parlano molti esponenti dell'opposizione da qualche mese, è la patrimoniale la risposta all'eurodebito? E poi la domanda finale, perché abbiamo cominciato con Deutschland, Deutschland, über alles in der Welt, perché le cancellerie europee, gli economisti si interrogano in questo 2010 che volge al termine sulla volontà vera politica che Berlino sta esprimendo dall'inizio di quest'anno ai mercati. La volontà da prima ribadita nella crisi greca, quella di una Costituzione che ha un vincolo: nessun finanziamento a programmi automatici di intervento per altri paesi che non passi prima della ratifica del Bundestag, di chi rappresenta la sovranità popolare. Devo dirvi che se fossi tedesco ragionerei così anch'io, perché dopo che ho fatto la scelta di mettermi in Costituzione il limite al tetto di spesa e il limite alla pressione fiscale, e dopo che ho fatto la scelta nell'economia reale di produttività e basso costo del lavoro che loro hanno fatto con grandi contratti negli anni 2002, 2003, 2004 nel core della manifattura, ne abbiamo parlato molte volte, vorrei anch'io da tedesco che fosse salvaguardato la virtù delle nostre scelte. Ma dall'altra parte, molti invece accusano la Germania di non capire che così facendo e ratificando con la Francia un meccanismo dal 2013-2014 che farà intervenire anche le banche negli aiuti e metterà in conto poi a chi ha comprato titoli di debiti pubblici dei paesi più deboli di doverci rimettere sopra, quindi un'ulteriore conferma che la Germania vuole la differenziazione del mercato dell'eurodebito, e molti pensano che così facendo la Germania butta all'aria non solo i paesi più deboli nella virtù della conti pubblici e dell'economia privata, ma soprattutto attenta, mina l'idea stessa di un mercato unificato, non capisce che la scelta di crescere solo con le esportazioni è una scelta di tipo mercantilista, settecentesca, sbagliata, perché non fa altro che aprire il gap tra chi può crescere solo con l'export, indebolendo il mercato interno, e chi a quel punto non ha più spazi per il commercio intraeuropeo, e a quel punto l'euro, presto o tardi, e più presto che tardi, visto che il mondo globalizzato non fa sconti oggi, entra in una crisi tale che o si differenzia oppure viene meno. E la domanda a questo punto è: sono i paesi deboli che escono, quelli che vanno in crisi, e la Germania che insieme a pochi altri paesi di virtù nordica, fino all'Austria compresa, fa una specie di super girone europeo con gli altri, con un tasso invece semifisso, e a quel punto mercati del debito pubblico che si differenziano? Oppure ancora, scrive Mario Monti sul Corriere, quando è che la politica europea capisce che è venuto il momento di eurobond, di mercati comuni, di uno strumento comune, scusate, del debito pubblico a copertura non solo dei debiti che sono rimasti nazionali? Guardate quante domande. Per questo ho cominciato con l'inno tedesco, perché devo dirvi la verità, se io fossi tedesco e avessi fatto le loro scelte tenderei a ragionare come loro. Del resto noi non siamo tedeschi e capisco che dobbiamo ragionare diversamente da loro, ma prima di accusare i tedeschi virtuosi di essere insensibili e stupidi, poniamoci il problema di un paese che cresce al 3,8%, avendo avuto l'unificazione alle spalle in 20 anni, essendo riuscita a risolverla per più di 2/3, e noi sono 150 anni che siamo fermi più o meno dove stavamo, o comunque in 60 anni il contributo del Sud al PIL nazionale è esattamente rimasto fermo. Questa è la mia introduzione. Presentiamo i nostri ospiti. Abbiamo con noi Tobias Piller, corrispondente della Frankfurter Allgemeine Zeitung, è spesso nostro ospite. Buongiorno e grazie. Buongiorno. Tobias. Abbiamo con noi Marcello De Cecco, che insegna storia della moneta e della finanza alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Buongiorno al professor De Cecco. Buongiorno. Il professor Emiliano Brancaccio, che insegna economia politica all'Università del Sannio. Buongiorno professor Brancaccio. Buongiorno. E Mario Seminerio, conoscete anche lui, più volte lo invito, oltre che avere grande stima di lui, è un economista e già è stato portfolio manager per società di gestione italiana e internazionale, oggi è portfolio advisor e curatore del blog politico-economico fastidio.net. Guardatelo, perché ogni giorno troverete un commento sull'evoluzione dei mercati in cui almeno io personalmente mi ritrovo molto spesso. Buongiorno e grazie a Seminerio. Buongiorno. Allora, De Cecco, ho scelto lei innanzitutto come esponente, diciamo, del partito critico, rispettoso, ma critico ed esplicitamente critico dei tedeschi. Cosa ci stanno combinando questi tedeschi, secondo lei? Ma io sono critico quando sbagliano, quando indovinano gli faccio degli elogi che altre persone non si sono nemmeno accorti di quello che stava succedendo in Germania, cioè che questi avevano fatto quello che lei molto bene ha detto prima, e cioè tra l'altro hanno dato 200 miliardi di euro all'anno alla Germania Est in 20 anni, fanno 4.000 miliardi di euro. Noi, da quando è uscito il Sud nel dopoguerra, ne abbiamo dato 500 miliardi di euro, non 4.000. Ecco, quindi quando si spende si ottengono i risultati, quando non si spende non si ottengono, e magari vanno a finire pure le mafie. Questo tanto per cominciare. La cosa molto semplice è questa: io credo che non sia una faccenda di non capire. I tedeschi sono stretti in una quantità di problemi interni, hanno una Corte Costituzionale che, come lei ha detto, vuol far rispettare queste regole che si sono date. Nella Corte Costituzionale c'è pure un mio paesano. C'è un abruzzese. Si chiama Udo Di Fabio, però è il più tedesco dei tedeschi, grazie a Dio, perché sennò, insomma, giustamente, terza generazione. E questi sono veramente, non fanno scotti, perché ritengono, come hanno detto in una loro sentenza di qualche anno fa, che i politici pensano solo a essere rieletti e perciò si mangiano tutto quello che più o meno esiste. Quindi è una visione parrettiana, Gaetano Mosca al quadrato. Molto saggia per quello che mi riguarda, però. E lo capisco, c'è anche persone, anche gente come me che ha una residua fiducia in qualcuno, però mica da. Comunque il discorso è questo. Come è stato dimostrato molte volte da giuristi che se ne intendono, non si può uscire unilateralmente dall'euro per un paese senza uscire anche dalla Unione Europea. La cosa si romperà quando i tedeschi decideranno di romperla, però non credo che lo faranno, perché essi sono i maggiori beneficiari dell'euro. Allora immaginiamo che domani non ci sia più l'euro, torna il Neue Mark. Il Neue Mark va a 2,50 sul dollaro, subito. Allora chi esportano i tedeschi? Possono fabbricare pure le migliori automobili del mondo e le migliori macchine utensili del mondo, però ci sta pure qualcun altro che le sa fare, giapponesi, americani risorgerebbero in un minuto, per modo di dire, cinesi che stanno arrivando. Quindi con quel cambio, quando è successo in Giappone alla fine degli anni Ottanta, il Giappone è entrato in una recessione, deflazione che è durata 20 anni. Gli si è sfasciato tutto il sistema finanziario. Ora il sistema finanziario tedesco non è che sia tanto in buono, il sistema bancario tedesco non è che sia tanto in buone condizioni. Anzi, andate a vedere quanto hanno pagato per garantire alcune loro banche. Andate a guardare i dati di Mediobanca, sul sito di Mediobanca ce li trovate. Quanto è costato? È costato, diciamo, la metà di quello che hanno speso gli inglesi, che sono quelli che hanno speso di più per rinforzare le loro banche, e le banche tedesche sono in condizioni che l'ex capo di BaFin, che se ne andava all'uscita l'anno scorso, alla fine, a dicembre, cioè un anno fa esattamente, ha detto: bah, non sono sicuro che sia finita, forse un'altra banca tedesca può ancora fallire. Quindi quello è un problema molto grave. Quindi la signora Merkel è stretta tra la Corte Costituzionale irremovibile e inflessibile, una popolazione che, come lei ha detto, si è dovuta adattare molto e soffrire dal punto di vista dei lavoratori, perché ai tempi di Schröder c'è stata la famosa riforma Hartz, per le quali è stato cacciato il signor Hartz dopo averle fatte, che però hanno permesso quel riequilibrio che a caro prezzo, cioè loro hanno pagato sulla propria pelle, quindi non hanno. Se gli viene ogni giorno detto che ci sono degli sciagurati in Grecia, in Italia, in Spagna, che stanno tutto il giorno a guardare il sole e poi la luna e non fanno niente, il tedesco deve pagare, questo non è così, non stanno pagando, pagano esattamente come gli altri, gli tocca di più perché ci stiamo tollerando un 6% del loro surplus come il nostro deficit. Vedete che il 6% del PIL è una cosa enorme. Non ce l'ha manco la Cina, vabbè, non ce l'ha nessuno, ce l'hanno solo loro, e ce l'hanno con noi, non con la Cina, con noi ce l'hanno. Quindi questo o diventa commercio interno, ha ragione Mario Monti, con bond interni e una politica fiscale interna in cui loro avranno molto da dire, perché sono la prima nazione d'Europa e non c'è niente da dire a proposito, lo sono sempre stati, è dal 1870 che funziona questo modello in Germania, è un modello basato sulle esportazioni e sul primato scientifico e tecnico. Va bene, le università americane sono state copiate da quelle tedesche. Esattamente, sì. Quindi qui bisogna che però che qualcuno capisca qual è il loro dilemma. Naturalmente la signora Merkel dice anche cose giuste, ma sbaglia il momento in cui le dice. Le dice, perché le va raccontando al popolo? Perché non le dice nelle cancellerie, fa organizzare un piano e poi si sa? Questo è il populismo diffuso in tutto il mondo, di cui WikiLeaks è l'ultima manifestazione, che sta distruggendo letteralmente le democrazie. E qui mi fermo. Allora, fine del primo round, qualche ascoltatore ci chiede fastidio.net non esiste, dovete fare col PH, non con la F, perché avete subito controllato per beccarmi, ma vi assicuro, col PH, fastidio col PH lo troverete. Facciamo rispondere subito nel primo round, prima di arrivare nel secondo round all'Italia, perché poi c'è chi pensa che ovviamente a noi un po' di disciplina allentata monetaria, cioè un po' di svalutazione se finissimo in un secondo girone dell'Europa ci farebbe bene. Da una parte farebbe bene ai tedeschi la riduzione dell'export con un nuovo marco, come ha detto il professor De Cecco, che scatterebbe immediatamente a 2,5 sul dollaro, e dall'altra noi ci avvantaggeremo. C'è chi la pensa così in Italia, molti la pensano così. Però prima di arrivare a questo, prima di arrivare alla strutturalità dei problemi risolti italiani che ci fanno entrare nella crisi dell'eurodebito dopo un anno di illusione, vediamo una risposta da parte di Tobias Piller, da parte tedesca, sugli argomenti usati da De Cecco. Tobias, che dici? I tedeschi sbagliano? Come se fossi io il portavoce della Merkel. No, questo no, ma diciamo, sì, ti utilizziamo per, a nome di un sistema paese. Dov'è l'errore, secondo te? Allora, comincio già dall'inizio, allo sfottò dell'inizio, così. La canzone Deutschland, Deutschland über alles non è nata per dominare i suoi vicini. È nata negli anni 30 dell'Ottocento, quando c'erano studenti idealisti che volevano che ci fosse una Germania unita e non tanti piccoli principati indipendenti, no? Ovviamente posto già questo. Poi la Germania era anche molto entusiasta per la unificazione europea, ma al momento ha preso una grande batosta su questo e si sente proprio anche fregata, perché si capisce che sarebbe difficilissimo uscire dall'Unione Europea. Non si vuole uscire dall'Unione Europea, ma sarebbe pure in teoria difficilissimo uscire da un'unione monetaria. Ma dall'altro lato ci sono tanti che si prendono tutti i rischi del mondo sfregandosene, perché alla fine c'è sempre qualcun altro che paga, e poi alla fine del giorno si dice adesso qualcuno deve pagare, altrimenti andiamo giù tutti nel baratro, e i tedeschi sono i primi a pagare. E questo certamente sono due cose che non funzionano bene. Da un lato c'è così quella tentazione morale di sempre prendersi rischi troppo grossi, e dall'altro lato c'è sempre quel sistema di che tutti spendono e poi tutti insieme devono mettere i soldi per finanziare alla fine. È come andare al ristorante, ognuno prende caviale, il miglior vino e così via, pensando che alla fine il conto almeno va diviso e c'è ancora quel riccone accanto che paga sempre di più di me. Non funziona così. Se italiani vanno in un ristorante, questa cosa capiscono molto bene, anche se fanno diversamente dai tedeschi, il conto alla romana dividendono semplicemente per i numeri delle teste. Questo è uno. Poi il problema è che ci sono dei paesi poco competitivi e l'esportazione tedesca tanto va verso altri continenti e non solo verso l'Italia o la Francia. Questo non è un gioco a somma zero, così non è così che uno deve importare e l'altro esportare e deve sempre essere a somma zero. I tedeschi prestano soldi ad altri, anche brasiliani, cinesi, americani, esportando. E se i tedeschi volessero spendere di più o altri paesi spendere di più, certamente non è sicuro che tutti si comprerebbero una Fiat o un pacco di pasta in più, perché è una però, questione però, di competitività. Però col marco a 2,5 metterai, Tobias, che insomma l'avanzo commerciale in qualche maniera, io non discuto la superiorità tecnologica e commerciale degli investimenti per unità prodotta che c'è nei prodotti tedeschi. Ricordo tutti, Volkswagen quest'anno per esempio nella sola Cina venderà, Cina che varrà 18 milioni di auto e veicoli leggeri quest'anno, 18 milioni è praticamente un terzo più del totale dell'Unione Europea, 27. In quella Cina la sola Volkswagen venderà il 75% di quello che vende in tutta Europa e più del doppio di quello che vende nella sola Germania. Quindi io non dubito questo, però ammetterai, Tobias, che se ci fosse un nuovo marco, insomma, le cose un pochino, no? E questo sarebbe l'argomento per dire che gli italiani vadano avanti a fare chiacchiere ogni giorno E così poi alla fine, se arriva la crisi, tanto ci saranno tutti gli altri europei a pagare. No, no, questo è l'argomento che fa sospettare molti in Italia, e lo si legge sui giornali, che i tedeschi, tutto sommato, a questa nuova fase della crisi dell'eurodebito, in cui entrano Spagna, Portogallo e Italia, non siano così sfavorevoli, perché questa è l'unica maniera per contribuire a deprimere l'euro, perché altrimenti la Fed tiene il dollaro schiacciato, i cinesi tengono il yuan schiacciato, noi, per evitare che l'euro si avvalori a valori e valori, andiamo avanti con la crisi dell'eurodebito. È così, come si vede infatti nei mercati ogni giorno, l'euro si deprime, i tedeschi si avvantaggiano. Questo è l'argomento, è l'accusa e il sospetto. Troppa dietrologia, così i tedeschi non fanno, non sono buoni pupilli di Machiavelli, per cominciare. E in quel senso potrebbero imparare molto dall'Italia e anche dai suoi politici. Ma il problema è come gestire questa contraddizione: da un lato la tentazione di spendere sempre di più, dall'altro lato se non paghi mandi tutti nel burrone. E tu che dici? Come gestire questo? E certamente dopo si vede l'eterna crisi dell'Italia. Per 16 anni adesso l'Italia discute non come governare, ma se deve essere permesso a Berlusconi governare. E va avanti ancora a discutere questo. Allora ti fermo su questo, perché stai entrando nel capitolo italiano, e prima che Tobias ci dica che cosa è meglio per l'Italia, sentiamo i nostri due osservatori, però lo dobbiamo sentire dopo la pubblicità. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci qua, tanto per ricordare che cosa vuol dire. Giustamente, sì, Tobias ci ha ricordato che quando Heinrich Hoffmann von Farrasbreben scrisse i versi, era per unità tedesca, però insomma poi nella storia tedesca non a caso oggi si canta solo la terza strofa dell'inno e non la prima, quella dell'Uberalles in der Welt, che insomma diciamo più volte nelle diverse riedizioni del Reich insomma ha avuto un'interpretazione che tutti dobbiamo ricordare nella storia. Non è questo che deve contare ai nostri occhi, perché ora siamo arrivati a un punto con i nostri ospiti da trattare. Non è che l'Italia si è illusa, ha spacciato un'illusione in questi anni. Noi eravamo al riparo dalla crisi, noi ci comportavamo meglio degli altri, stavamo tenendo meglio di tutti, e ci dimentichiamo di dire che appunto noi le scelte tedesche non le abbiamo fatte né sulla finanza pubblica né sulla produttività, e quindi come diavolo sta messa sta cosa? Non è che abbiamo spacciato un bel po' di sostanze stupefacenti in questi anni, e hanno ragione i mercati a far aumentare i nostri spread, e non saranno le chiacchiere a farli scendere, perché ci sono dei dati oggettivi che inducono i mercati a comportarsi così. Questa è la domanda che faccio a Mario Seminerio. Che pensi, Mario, tu? Ma sì, credo che questo tema è abbastanza acquisito e noto, cioè l'Italia di fatto dall'entrata nell'euro, dalla decisione di convergere verso l'euro, per cui parliamo di circa un quindicennio, non ha realmente fatto nulla per ristrutturare la propria economia e metterla in linea con quelli che erano i requisiti della divisa unica. Non sono state fatte riforme di struttura, la produttività, soprattutto la produttività totale dei fattori, quindi quella maggiormente influenzata dal sistema paese, è rimasta desolatamente stagnante. Non è un caso forse che il dibattito ora si sta incentrando sulla produttività del lavoro, quindi no, l'esempio Fiat, Pomigliano, Mirafiori, eccetera, ma c'è anche, e non c'è solo una produttività del lavoro, c'è una produttività totale dei fattori, che vuol dire una struttura di ricerca e sviluppo, una capacità di fare innovazione, una pubblica amministrazione che sia realmente agevolativa, che dia una spinta alla crescita anziché rappresentare un elemento di freno. La verità è che in questi 15 anni, diciamo, dalla nostra convergenza alla moneta unica, noi abbiamo inizialmente incassato il dividendo dei bassi tassi di interesse, come del resto lo hanno fatto tutti i paesi meno virtuosi come noi. A questo punto, quando l'euro, diciamo la costruzione europea, che è ricca di problemi, contraddizioni, incoerenze, ci sono letteralmente molte parti mancanti nella costruzione europea e non si sa nemmeno come costruirle in questo momento, sta presentando il conto, è chiaro che noi ci troviamo esposti a queste turbolenze. Quello che sta succedendo in questi giorni, questa sorta di effetto contagio, personalmente non è che mi stupisca, non è che lo vivo come un qualcosa che non poteva accadere in nessun caso. Cioè, quando un paese ha un PIL potenziale che a malapena raggiunge l'1%, quando i tassi cominciano a crescere, come tasso dico, o un tasso di interesse che cresce per effetto di una vigorosa ripresa continentale, oppure la componente di tasso di interesse legata al premio al rischio aumenta, cioè i nostri spread, è chiaro che il paese viene sottoposto ad uno stress crescente. I conti pubblici vanno a gambe all'aria, manovre di correzione complessivamente molto blande, come quella che è stata varata la scorsa estate, quindi da 0,8% di PIL per un biennio, risultano drammaticamente insufficienti. Per cui, per rispondere alla domanda, sì, non è stato fatto nulla in Italia nell'ultimo quindicennio, sono state fatte enormi chiacchiere bipartisan, e non è stato fatto nulla a livello di riforme di struttura. E quindi il mercato fa bene. Professor Brancaccio, lei è tra coloro che giustamente, legittimamente, dice qui, dopo tutti questi anni di crisi, ancora non abbiamo capito che o li regolamentiamo un po' meglio, li invigiliamo, gli mettiamo un po' la museruola in qualche misura a questi mercati, oppure i danni cresceranno e gli stati restano impotenti a guardare. Dal suo punto di vista, Italia avrebbe più da perderci o da guadagnarci se un evento traumatico voluto o comunque consentito dai tedeschi di qui a qualche mese, di qui al 2013, mettiamola così, la nuova scadenza del nuovo strumento che compartecipa le banche e coloro che comprano i titoli del debito pubblico al rischio, e quindi esplicitamente diventerà un sistema, se passa davvero come lo vogliono i tedeschi, in cui chi si compra titoli più rischiosi deve mettere in conto che non c'è un processo di salvataggio, ma ci può rimettere interessi e magari anche una parte del capitale se il paese diventa insolvente, cosa che naturalmente accentuerà molto gli spread e gli andamenti differenziati. Ma in quel caso l'Italia c'ha anche qualcosa da guadagnarsi, come pensa qualcuno? Che dice, professor Brancaccio? Ma guardi, per quanto riguarda la questione per cui, diciamo, i creditori debbono assumersi dei rischi, perché poi dietro quella proposta tedesca c'è, diciamo, l'idea che i creditori debbono assumersi dei rischi e poi evidentemente debbono vedere i rendimenti riflettere quei rischi, io credo che sia una petizione di principio corretta, ma detta nel modo sbagliato e nel tempo sbagliato. Però ci arriviamo a questo punto. Io vorrei innanzitutto fare un attimo una prima riflessione per quanto riguarda l'Italia, perché l'interlocutore precedente diceva che in Italia non si è fatto nulla. A me sembra che le cose siano un po' diverse, nel senso che dovremmo ricordare che nel corso degli ultimi 15-20 anni noi abbiamo assistito in Italia ad una, letteralmente ad una precipitazione dei salari relativi italiani rispetto a quelli degli altri paesi europei. In Italia noi registravamo i salari tra i più elevati d'Europa intorno agli anni 70, oggi registriamo i salari tra i più bassi d'Europa. Faccio anche notare che in Italia noi abbiamo assistito, attraverso tutta una serie di provvedimenti legislativi, ad un crollo degli indici di protezione dei lavoratori che ha rappresentato un record negli ultimi 15 anni, cioè non c'è nessun paese nell'area dell'OCSE che abbia fatto registrare una caduta più forte degli indici di protezione del lavoro in Italia di quanto sia avvenuto in Italia. Quindi Italia, in realtà la parte di recupero produttività l'abbiamo fatto solo sulla componente, ecco, lavoro. Il punto è esattamente questo, cioè fondamentalmente esiste un problema di produttività all'interno del sistema paese che è un problema indubbiamente irrisolto, ma io direi che i lavoratori hanno già abbondantemente tentato di dare, sulla base di una strategia di abbattimento dei salari, di abbattimento delle tutele, che si è rivelata, a me pare che i dati siano inequivocabili a questo riguardo, si è rivelata del tutto inefficace. Ora, per quanto riguarda il rapporto, diciamo, con la Germania e con l'area dell'euro, il dottor Piller, l'interlocutore tedesco, proponeva, diciamo, una lettura della situazione europea che mi pareva un po' basata sulla idea che ci sono Arlecchino e Pulcinella, cioè essenzialmente i greci, gli italiani, gli spagnoli, che allegramente spendono e spandono e poi paga Pantalone, il povero Pantalone tedesco, che è costretto poi a rimediare agli errori. Più o meno sì. Ecco, a me non sembra francamente che le cose stiano esattamente così. Anche facciano... perché dice De Cecco, quelli sono quelli che ne approfittano di più del mercato unico, del vantaggio competitivo sui mercati internazionali dell'euro, così, così dice De Cecco. Il professor De Cecco ha perfettamente ragione, nel senso che innanzitutto faccio notare una cosa, cioè che le allegre banche irlandesi che si sono esposte in maniera allucinante nel corso di questi anni, un debito, ripeto, privato, non pubblico, privato, si ritrovano con dei debiti nei confronti essenzialmente delle banche tedesche e dei creditori tedeschi. Ed evidentemente il fatto che i tedeschi abbiano abbondantemente erogato credito a favore dell'Irlanda doveva evidentemente convenirgli, perché altrimenti la cosa non si spiega. Quindi, come dire, mi pare che Pantalone sia in una situazione un po' più complicata, diciamo, di quanto venisse prima evocato dal nostro interlocutore tedesco. Vorrei però andare un po' più a fondo della questione, perché qui il problema è questo. Le autorità tedesche in Germania prevale questa idea secondo cui lo squilibrio pesantissimo nei rapporti di credito e debito tra i paesi europei, che vede la Germania creditrice e gli altri paesi debitori, l'idea che prevale in Germania è che il riequilibrio dovrebbe avvenire essenzialmente a carico interamente dei paesi debitori, i quali dovrebbero comprimere le spese, comprimere ulteriormente magari i salari e di conseguenza magari importare di meno e quindi ripristinare, esatto, una condizione di equilibrio. Il problema è che questo tipo di impostazione, di logica, soprattutto nel contesto della gigantesca crisi che stiamo tuttora attraversando e che non è assolutamente irrisolta, è un tipo di politica che conduce a quella che prima Fischer e poi Keynes chiamavano deflazione da debiti. Sì, esatto. Cioè, nella sostanza, questa politica di compressione delle spese, magari dei salari, produce una riduzione ulteriore della domanda, quindi della produzione, quindi dei redditi, e rende di conseguenza ancora più difficile il rimborso dei debiti. Come stiamo vedendo in Grecia. In Grecia, appunto, noi l'abbiamo sbattuta a meno 5 di PIL per via del suo rigore. È ovvio che il debito pubblico, malgrado la drastica cura dei conti pubblici, il minor deficit delle poste contabili nel bilancio pubblico, il debito aumenta comunque quando un paese va a meno 5. Esatto. Ora, quindi il mio interrogativo è questo. Adesso non vorrei farla troppo complicata, ci sono evidentemente degli interessi che contemplano anche, come dire, questa eventualità e questa ipotesi, ma a me pare comunque che questa idea di scaricare sui soli debitori il costo, diciamo, del riequilibrio sia un'idea che da un punto di vista proprio di logica economica non funziona. Non mi pare che tenga. Perfetto, allora noi adesso abbiamo l'informazione sulla circolazione stradale, però alla fine il punto è che qui di regole comuni non ce ne sono. I tedeschi hanno l'opinione pubblica e la Corte Costituzionale, che abbiamo ricordato col professor De Cecco. Il punto è, se qua succede il bam e l'Italia ci guadagna, ci perde, io sono di quelli che dicono che ci perde. Io non penso che bisogna rimpiangere gli svantaggi, i vantaggi competitivi, per così dire, delle svalutazioni monetarie, però molti pensano che in realtà l'euro è una disciplina che noi non ci possiamo permettere, per così dire, anche perché lo pensano in molti che poi hanno avuto la stretta sul reddito disponibile nel lavoro dipendente, che ricordava il professor Brancaccio, che sono numeri, non sono cose su cui ci si può dividere. Le informazioni sulla circolazione stradale, poi torniamo per le conclusioni. Eccoci tornati qui per una riflessione conclusiva con i nostri ospiti. Professor De Cecco, lei è tra quelli che dicono che ci possiamo pure guadagnare se scoppia, se si diversificano i gironi dell'euro? Ma che stiamo a scherzare? Io lo penso esattamente come lei, noi ci perdiamo in maniera totale, perché questo sarà, come diceva Seminario prima si sono adoperati dei sistemi e anche Brancaccio, adesso si adopererebbe di nuovo la svalutazione competitiva che per 30 anni ci è bastata a distruggere l'industria italiana, letteralmente distrutta. E quella piccola impresa di cui tutti si vantano quando vanno bene le cose era una metastasi, non era uno sviluppo, va bene, che dipendeva quasi completamente dall'abbattimento delle regole sulla protezione dei lavoratori e dalla svalutazione competitiva. Quindi questo è un futuro terribile. Poi, tra l'altro, io sono nato sotto le bombe degli americani, dei tedeschi, il mio paese è stato incendiato dalle truppe tedesche. Io quell'Europa non la voglio vedere più. Vabbè, l'Europa delle Nazioni. Ma è vivo ancora quel ricordo, secondo lei, nelle classi dirigenti tedesche? Sì, ma nelle classi dirigenti tedesche di oggi? Le cose si dimenticano. Nelle classi dirigenti tedesche di oggi? Perché lì dicono che insomma il complesso di colpa, eccetera, eccetera, non c'è più. E, insomma... No, ma non ci interessa il complesso di colpa. A me interessa il fatto che mi sono cadute addosso delle bombe, a prescindere da chi me le ha tirate sopra. E le altre le abbiamo incendiate pure noi, un po' di carri armati tedeschi. Perciò c'è stata la rivolta e poi la repressione. Quindi è una storia tremenda che chi non l'ha vissuta la dimentica. Infatti Kohl diceva: facciamo adesso l'Europa perché siamo noi che ci ricordiamo quello che è successo. Poi non se lo ricordano più, diventa come credono che siano partite di calcio. Io quando sento Willer, che è giovane, penso che stia parlando di una partita di calcio, va bene, tra italiani e tedeschi, il che è vero fino a quando le cose rimangono da ridere. Poi a un certo punto non si ride più ed è una tragedia infinita. Io ho visto volare gli aeroplani che andavano a bombardare il Kosovo e andavano a bombardare la Serbia. La Serbia è un paese europeo. Eh sì, ed è successo. E lì nessuno l'ha fatto notare. L'altro che ieri. Perché il signor Clinton, per farsi dimenticare quello che aveva combinato con la segretaria, abbiamo dovuto fare una guerra in Europa. E queste cose possono succedere, sono già successe, quello è a 10 chilometri dal mio paese, per modo di dire. Certo. E questo non ce lo dimentichiamo mai, perché la gente se l'è già dimenticato che noi abbiamo con i nostri aeroplani bombardato la Serbia, il cui esercito abbiamo salvato nel 1914. 14, infatti. Domanda invece per Seminerio e per Brancaccio. Se si va incontro a un deterioramento della posizione italiana sui mercati, cioè se insomma si va verso i 300 e oltre i 300 punti base di spread sul BTP Bund, è assolutamente possibile nel giro di poche sedute, e non so se basti l'appello riservato dei governi europei alla BCE a dichiarare prontamente a quel punto di essere pronta a comprare quantità enormi dei titoli i cui spread ballano, perché è questo che riservatamente hanno chiesto alla BCE ieri i governi europei. E non so se arriveremo agli Eurobond di cui parla Monti, perché i tedeschi non ne hanno mai voluto sentire parlare. In quel caso l'Italia che tipo di consolidamento dovrà fare? Manovre aggiuntive? Oppure la patrimoniale? Che pensa Seminerio? Ma se posso fare un rapidissimo inciso su quanto diceva prima il professor Brancaccio, la quota di valore aggiunto che viene assegnata al capitale piuttosto che al lavoro, che il professore dice appunto l'Italia ha avuto un forte depauperamento, diciamo, nella componente lavoro, è una tendenza globale, no? C'è questa tendenza in atto anche negli Stati Uniti, di conseguenza fa parte del dibattito politico. Che poi, se il professor Brancaccio ritiene che l'Italia sia un paese tiranneggiato da una classe dirigente largamente, come dire, che vive su rendite spesso parassitarie, su questo si sfonda una porta aperta, ma non sono queste le riforme non fatte a cui mi riferivo io. Tornando alla tua domanda, Oscar, io direi: cosa farà l'Italia? Farà quello che ha sempre fatto quando suona la sveglia dell'emergenza, farà una manovra di una patrimoniale, perché non potendo intervenire sui meccanismi di spesa e sulla gestione dell'entrata molto più di quanto non stia già facendo, perché penso che la corda stia per spezzarsi da questo punto di vista, verrà fatta una classica manovra come quella di Amato del 1992. Però io sto facendo un discorso assolutamente astratto e ipotetico. Certo. È un fatto comunque che la problematica sussiste, il fatto che l'Italia, ma anche tutti gli altri paesi, abbiano un deficit di crescita che genera buchi di entrate fiscali, che ne dicano al tesoro, perché i buchi di entrate fiscali ci sono e devono continuamente essere rattoppati, vuol dire che abbiamo un problema serio di gestione della finanza pubblica. E quando non si riesce più a gestirlo attraverso la gestione ordinaria, si passa alla gestione straordinaria emergenziale, magari con qualche bel discorso a reti unificate della nazione, certo, sulla gravità, certo, del momento. E magari qualche bel governo istituzionale. Brancaccio, lei che dice? Patrimoniale? C'è nell'angolo, dietro l'angolo, questa cosa? Guardi, rientra nel novero delle possibilità, come purtroppo, io dico purtroppo, vi rientra anche l'ipotesi di ulteriori abbattimenti dello Stato sociale o del quel po' di servizio pubblico che ci resta. Io temo molto questa seconda eventualità mi auguro che non si verifichi, ma purtroppo c'è chi evidentemente si muove in questa direzione. Devo precisare però una cosa, innanzitutto io mi riferivo ad una caduta diciamo delle condizioni di lavoro in Italia relativa, non soltanto assoluta. Voglio ricordare che in Italia gli indici di protezione del lavoro, per esempio, sono caduti più che in tutti gli altri paesi. Vorrei anche precisare una cosa, che secondo me, al di là della modalità poi di risoluzione, diciamo, dei problemi interni del paese, io mi domando chiedo per quale motivo all'interno della Unione Europea non emerga esplicitamente quel conflitto che è in atto all'interno del Consiglio dell'Unione. Ecco, io penso non se ne parla, se ne parla meno di quanto dovremmo. Faccio un esempio, faccio solo un esempio. Axel Weber, attuale governatore della Bundesbank, che è uno dei candidati, uno dei papabili a sostituire Trichet al numero uno della Banca Centrale Europea, ha espressamente chiarito che nella ipotesi che lui andasse al vertice della Banca Centrale Europea, gli acquisti di titoli pubblici, diciamo, asimmetrici che la BCE in questo momento sta realizzando, cesserebbero. Io adesso la devo fermare perché a 55 è finito il nostro tempo. Devo ringraziare Brancaccio, Seminerio, il sito dove guardare le sue opinioni e fastidio col ph.net, il professor De Cecco che ci illumina e Tobias Piller che ci richiama al dovere. Io sono stato zitto a questa trasmissione, io sono per scelte tedesche, limite in costruzione alla spesa e alle tasse, forte diminuzione della pressione fiscale, redistribuzione della copertura, non taglio ai servizi pubblici e a chi ha meno, ma solo così in Italia si concentrano le risorse dove ci sono i veri problemi. Invece avete visto nelle ultime 48 ore 30.000 nuovi assunti tra sanità e precari, in Sicilia 30.000 in una sola botta. Ecco, allora la Spagna ci insegna che si può tagliare e diminuire la pressione fiscale sulla piccola e media impresa. Io sono dell'idea che queste sono le strade che ci consentono non di fare i piccoli tedeschi, ma di avere meno spesa pubblica e concentrata sui problemi. Del resto sono in minoranza. Penso che invece vi aspetta, cari italiani, se le cose vanno male, davvero la patrimoniale. Poi non piangete, non dite che non ve l'abbiamo detto. E riflettete sull'inno tedesco. Imparate a cantarlo, va, che è meglio. Appuntamento a domani.